da Andrea Camposaz, va bene? Ok. Sì, va bene. Allora, buonasera a tutti, io sono Andrea Simon, ex presidente dell'associazione Camposaz, questo voglio sottolinearlo perché questa sera con me, che mi hanno sbattuto su questo palco, ci sono altri tre soci dell'associazione che poi vi racconteremo come si sta evolvendo, perché è una delle cose più belle, io credo, per un'associazione che ci sia a un certo punto, no, del suo ciclo, della sua vita, il rinnovo e il cambio generazionale. Quindi questa sarà l'ultima volta che io parlo ufficialmente per primo su un palco dell'associazione Camposaz. Comunque, vabbè, noi veniamo siamo nati in Trentino, nella valle di Primiero, Fiera di Primiero, forse conoscete San Martino di Castrozza perché è una meta sciistica dove molti milanesi vengono. E che dire, tutto nasce nel 2013, di fatto pochi anni che, un paio d'anni che io ed altri colleghi architetti che oggi non sono qui, abbiamo pensato, me la mandi avanti tu Olli, grazie mille, vado gentilissimo. Però puoi stare anche sulla prima immagine, tanto era un'introduzione veloce sulla nascita dell'associazione. Di fatto noi ci siamo laureati in un periodo in cui di fatto non c'era un granché di lavoro, no? Eravamo in piena crisi, non è come ora, no? Il boom edilizio è scoppiato, però volevamo in qualche modo avere la possibilità di mettere le mani in pasta, vedere costruito qualcosa che noi avevamo concepito senza aspettare le lungaggini burocratiche. Di fatto è nata un po' così l'idea di costruire qualcosa fisicamente, in modo molto naif, se vogliamo, non è stato ragionato molto, e anche questo è il bello della nostra associazione, che è nata in modo molto spontaneo, sull'onda, se vogliamo, come riferimento di questo architetto finlandese che ci piaceva molto, che è Sami Rintala, professore universitario, che portava i suoi studenti in queste lande desolate della Norvegia o Finlandia, ora non ricordo mai bene quale delle due, ma a costruire queste bellissime costruzioni realizzate di fatto in pochi giorni, perché venivano concepite prima ma realizzate in pochissimi giorni, però fisicamente dagli studenti. E quindi da qui nasce l'idea. Qui vedete Oliver, lo sottolineerei, Oliver, questo ragazzo qui, è stato uno dei partecipanti della prima edizione del workshop nel 2013 e da lì è diventato colonna portante della nostra attività. E abbiamo iniziato proprio nella valle di Primiero, anche lì un'amministrazione un po', se vogliamo, incosciente, perché di fatto, in tutti i sensi, no? Perché di fatto neanche noi sapevamo bene cosa stavamo facendo, ma ci sono venuti incontro e ci hanno dato degli spazi, dei due luoghi in particolare, da riqualificare attraverso delle piccole costruzioni a base di legno, di fatto, perché il legno è il materiale più versatile, più comodo e più veloce per poter essere plasmato e per portare delle idee dalla carta alla realtà. E questo è quello che poi abbiamo fatto nel corso di tutti questi anni, quindi parliamo di 9 anni di lavoro. Abbiamo fatto una marea di workshop un po' in tutta l'Europa. In realtà questa è la mappa della provenienza dei partecipanti, perché non ho detto che appunto questi workshop si basavano sempre su call internazionali a cui tutta una serie di partecipanti aderivano, mandavano la loro adesione, e questi sono i luoghi dove abbiamo operato. Quindi dal Primiero, il Trentino, abbiamo, attraverso soprattutto la rete che poi si è creata di contatti con ex partecipanti eccetera, ci siamo spostati attraverso un po' tutta Europa, realizzando direi almeno una quarantina di workshop di autocostruzione. Ecco qui è un po' di statistiche delle licenze edilizie in Italia nel 2013 eccetera, che erano in calo, motivi per cui ci siamo dati da fare. E ecco, tutto nasce anche, questa è un'immagine abbastanza esplicativa, dal fatto che a Primiero, proprio in quegli anni, organizzavamo un festival di musica che richiamava artisti italiani di medio-alto livello del panorama indipendente italiano a fare questo festival in montagna, e si chiama Sota la Zoppa, bravissimo, ecco, e si chiamava Sota la Zoppa perché poi... Però quest'anno sarà? Quest'anno si ricomincerà a farlo, ok, è vero, e da lì noi siamo partiti con il concetto di... abbiamo un festival che di fatto richiama 2-3.000 persone in questo piccolo posto, ovviamente per Milano 3.000 persone è nulla, ma lì, visto che si parla di una valle che gli abitanti sono 10.000, avere 3.000 ragazzi che in un giorno arrivano dall'esterno e popolano le vie dei paesi e i prati circostanti, era un evento che lasciava il segno, o meglio, lo lasciava in quei due giorni, ma poi quando tutta questa gente spariva, lì non restava più nulla, tutto tornava come prima. Quindi l'idea c'era venuta anche di collegare questo workshop al festival per poter in qualche modo far sì che dopo il passaggio del festival un segno tangibile rimanesse, e questa è stata un po' l'idea iniziale. Da lì in poi Campo Sazio ha iniziato a camminare con le proprie gambe ed è diventato un appuntamento indipendente che poi ha in qualche modo, se vogliamo, ci ha fatto scoprire tutti i valori che all'inizio non ci immaginavamo e che poi magari racconterò, però intanto io lascerei la parola a te per non tirarla troppo lunga. Non so, di qualcosa, beh, ce ne sono tantissime cose da dire, ma abbiamo solo un quarto d'ora, quindi lascio parlare a te, Oliver. Un pochino, scusa per l'italiano. Allora, no, il Wurst Game è il vaso di come è fatto il workshop, perché allora ci sono 15 partecipanti, sono 10 giorni, 5 cubi, metri cubi di legno, e non è disegnato prima che cominciamo. E sì, allora è tutto c'è un sacco di spontaneità. E allora arriviamo il primo giorno, siamo, li mettiamo sulla tenda e poi c'è sempre il fuoco è una cosa in base che si fa a Campo Sazio. E poi il primo giorno li conosciamo, poi parliamo, andiamo a fare due passi nel luogo, vicino al luogo, a vedere come sa, perché tante gente che si vengono non hanno mai andato al primiero o dei posti che siamo andati. Allora cominciamo con il walk e poi facciamo il survey, andiamo, cominciamo con la scala più grande, poi concentriamo sui piccoli luoghi che facciamo. Normalmente facciamo due e dividiamo i partecipanti, o facciamo uno, dipende dal progetto. E poi sì, come facciamo il survey e poi facciamo dei sketches. Allora normalmente abbiamo sempre fatto tipo dividiamo in ogni luogo, ci sono due gruppi, e poi in ogni due gruppi fanno dei proposte, poi fanno dei sketch, fanno dei modelli, e poi si fanno, e poi alla fine quando hanno arrivato a un certo livello di idee parliamo e poi vediamo come domani siamo poi parliamo e poi decidiamo quale andare avanti, però vogliamo sempre pensare quel di tutti e due che sono stati fatti, da cercare di trovare un modo che possiamo inserire tutti e due insieme. E poi arriva il legno, che è la cosa che quello sai perché Campo Sazio è cominciato. E poi, come vedi, si comincia e poi l'esperimentazione è la cosa più bella, il fatto che non è, allora delle volte, tante volte cominciamo con un disegno, che andiamo lì con un piano, delle sezioni, così andiamo normalmente con un sketch, allora c'è abbastanza spazio per cambiare l'idea da come comincia fino a come fine è finito. E poi questo è il nostro mago, che si chiama Claudio Motz, e lui usa una motosega come portello, è proprio incredibile, dovresti vederlo. Allora lui è sempre stato lì per noi, lui ha il noleggio tecnico che all'inizio non sapevamo come fare tante cose, come hai detto, che abbiamo cominciato a imparare come usare la roba. Allora lui era sempre lì e poi dopo un sacco di anni abbiamo alzato il livello, come sappiamo, però lui è sempre lì per chiedere, per essere sicuri cosa facciamo. E poi ovvio la costruzione si comincia e poi alla fine abbiamo il progetto, che normalmente ce n'è un'inaugurazione. E poi la cosa più bella è la cosa che non vedi tante volte in architettura, il fatto che alla fine puoi vedere la gente che si usa una cosa che costruito, che è questa cosa che delle volte lo vedi degli architetti che fanno i disegni e non hanno mai visto come funzionano, e poi però si usano, e poi però non sanno se funzionano. E poi questi sono i capostaziani del primo anno, siamo molto giovani, sono molto più capelli lì. E poi facciamo la festa normalmente, e proviamo a svegliare per le loro inaugurazioni. Sai che penso che forse passo questo a P. Per far capire ai presenti, ecco, io e Oliver abbiamo partecipato appunto alla prima edizione, poi nel frattempo il gruppo è aumentato sempre di più, si è creata questa rete trasversale che ha attraversato i confini degli stati, ed ora l'associazione è passata, diciamo, c'è stato un rinnovo del direttivo, dicevo una cosa bellissima, che a un certo punto, diciamo, chi ha un po' concepito all'inizio le idee riesca un po' a defilarsi, rimanendo comunque a supporto, lasciando il campo libero a chi è entrato magari qualche anno dopo e dà tante idee, tante energie per poter dare anche nuova vita all'associazione. Massimiliano e Tatiana sono tra questi. Dicevo prima, no? Ricordo ancora Tatiana, siamo venuti proprio qui a Milano, credo fosse il 2015, può essere Tatiana, al Politecnico, 2014, il Politecnico a presentare l'attività della nostra associazione, e in prima fila c'era questa ragazza molto interessata che faceva un sacco di domande, ed era Tatiana. Ed oggi, dopo quanti workshop, credo almeno una quindicina, che tu hai seguito direttamente, è parte del direttivo dell'associazione. Quindi Pif, racconta pure l'esperienza in To The Wild. Grazie a te. Allora, questo di fatto è forse uno degli workshop che abbiamo fatto in maniera più selvaggia in assoluto, poi potrò andare avanti, e ci troviamo nelle Tartu Mountains, che sono praticamente delle montagne in Romania, vicino ad Armenish, a sud di Bucarest. E là siamo stati contattati dalla WWF Romania, il quale aveva tutto un programma di sviluppo di quello che è il turismo lento e sostenibile all'interno di questi contesti. Quindi tramite un contatto noi siamo stati, diciamo, chiamati dalla responsabile della WWF, che è Oana, e siamo arrivati lì. Di fatto non c'era assolutamente nulla, c'era solamente una casetta in pietra dove tendenzialmente una signora rumena è rimasta con noi 15 giorni a prepararci da mangiare mattina e pranzo e cena, e noi decisamente ci siamo di fatto costruiti tutto, dalle docce ai bagni e infine anche questa struttura qua, perché l'obiettivo era realizzare un osservatorio per bisogni, perché scordate di dirlo, però nel 2016 il WWF ha reintrodotto il bisonte europeo all'interno di questa riserva delle Taco Mountains, e quindi per sponsorizzare la cosa hanno ideato questa sorta di progettualità per realizzare un osservatorio. E siamo rimasti là circa 20 giorni, è stato un po' più lungo del solito, i partecipanti non eravamo 15 ma eravamo 30, quindi è stata una squadra pazzesca, che dire, è stata un'esperienza incredibile che spero si possa ripetere, e non so, io so, magari anche uno di voi possa unirsi alla squadra. Questo è un altro invece molto più urbano, ci troviamo nell'Appennino tosco-emiliano, di preciso ci troviamo a Borgo Serrucce, che non so se vi suona un campanello, però è una famosa località turistica ai tempi di quando fu realizzata l'Autostrada del Sole, che promosse, diciamo, questo turismo e quindi si ingrossò negli anni 90, mi pare una cosa del genere, poi chiaramente è una forma di turismo che è andata via via calando, a maggior ragione per poi l'intervento estremamente invasivo che è stato fatto nei sotterranei di questo piccolo borgo, che era la variante di Valico, che letteralmente ha bucato tutta la montagna, causando delle gravissimi dissesti idrogeologici, che tuttora, diciamo, si portano dietro lo spopolamento di queste aree. Quindi all'interno del master plan curato da Ciclo Stile Architettura di Bologna, che fu presentato anche alla Biennale di Venezia, si è creata, diciamo, questa intesa per promuovere anche qui il turismo lento, per far tornare a vivere, diciamo, questi spazi. E quindi siamo andati a Borgo Serrucce, dove abbiamo realizzato tutte queste piccole infrastrutture, andando a riempire dei piccoli vuoti all'interno del paese. La risposta che abbiamo ottenuto dalla comunità è stata incredibile. Abbiamo avuto una barriera il primo giorno, quindi chi cazzo sono questi che arrivano da noi e vogliono fare cose, all'ultimo giorno dove abbiamo fatto una festa tutti quanti assieme, tutti amici, tutti, ad esempio questo è uno degli scorci, dove letteralmente hanno aperto le porte di casa loro per accoglierci al 100%. Quindi è stato forse uno dei più riusciti, ecco, diciamo. Se tu vuoi parlare di Ghent, dai, così parliamo un po' tutti. Questo è un altro workshop che... Io non so dire granché, nel senso che non c'ero. E non dica. Sì, sì. Sì, infatti alla fine mettersi tutte le foto e tutti i progetti. Allora, questo è allora, se anche torniamo alla mappa che vedi tutti i partecipanti, mi piace più di tutto su questo progetto. Questo è stato portato da Veronica, che vive a Parigi, da Romania. E lei ha fatto, quale che ha fatto? Ha fatto tipo, ha fatto Rotterdam, quello da Rotterdam è stato portato da Tessa, che ha fatto quella da Romania. Quella da Romania è stato portato il secondo Transacqua, da Giulia. Allora, tipo, abbiamo tutti, è stato un effetto domino che abbiamo portato di qua. Allora, lei ha parlato con le gente che hanno fatto il padiglione francese al Biennale di Venezia. E avevamo due progetti, che questo è uno. Allora abbiamo stato chiesto di fare dei dormitori per dormire, perché hanno proposto da rivalutare la caserma sul Lido per essere usato, perché quello era parte del suo concetto. E sì, questo è uno dei progetti che sta figo, al Salens, posso dire. E sì, allora, per un posto per che le gente che possono dormire e stare a Venezia senza pagare tanto. Sì, questo si chiama il villaggio. Allora, c'è un sacco di sì, esatto, sono tutti concetti diversi, tutti letti diversi, di diversi altezzi. E poi lo passo a Tati. Infatti il sito è stato la Mariella, è venuto, che ha fatto tutto, che il, come si dice, i pimenti toys, pimenti tipo, per esempio, c'è il caffè, che è la roba che stiamo bevendo, e poi c'è del cipolle che siamo mangiati, e penso che ha anche preso dell'altro. Esatto. Allora, l'ultimo, che in realtà è stato il primo progetto di interni che abbiamo fatto, e abbiamo collaborato con questa associazione che era un po' un ex falce però in Belgio, e dove abbiamo fatto contribuito a riqualificare gli interni in occasione di un festival a Ghent, e abbiamo scelto questo tema della modularità, quindi abbiamo creato questo modulo che è stato replicato in tre diverse dimensioni ed è stato portato all'interno poi dello spazio. E è stato molto bello perché è stato uno dei workshop probabilmente più internazionali che abbiamo avuto, nel senso che c'erano veramente un partecipante da ogni paese che insomma ha fatto application, e ovviamente è stato anche molto bello vedere come i genitori dei figli dei paesi nordici sono veramente liberi, nel senso noi abbiamo appena finito di montare tutto, non avevamo ancora tassellato niente, i bambini sono lanciati sopra le strutture mentre bevono il caffè. Però nel senso, un altro esempio di lavoro di interni. E adesso c'è una carrellata di altri workshop in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, come abbiamo detto prima se ne sono stati più o meno una trentina, e secondo me andando avanti con questa carrellata è giusto un po' riprendere i temi principali del workshop, che sono quelli dell'essere un workshop internazionale, quindi cercare di coinvolgere più persone diverse possibili, quindi è aperto ad architetti, designer, carpentieri, ma abbiamo avuto anche informatici, sono venute persone a caso che si sono unite a noi durante il workshop, che si fermavano e volevano passare, e ci hanno aiutato e contribuito a migliorare il progetto. Sembra una stupidaggine, ma è un workshop gratuito, quindi noi non chiediamo nessun tipo di spesa di partecipazione, perché secondo noi è molto più inclusivo anche per magari studenti o giovani lavoratori avere la possibilità di venire in Italia, andare a Rotterdam e poter veramente costruire qualcosa dopo aver fatto 5 anni di università senza costruire niente, che è comunque una formula che sta funzionando, e soprattutto non ci sono preliminari, quindi qualsiasi cosa tu hai in mente quando arrivi viene presa in considerazione e si trova tutti assieme una soluzione per andare a riqualificare in maniera puntuale le aree che scegliamo. Questa l'abbiamo inserita nel caso in cui qualcuno fosse interessato a partecipare ai workshop di quest'anno, e col cambio direttivo, cioè in ripresa dalla pandemia, e stiamo andando un po' a recuperare tutti i workshop che sono saltati, e quindi quest'anno sarà stromene, quindi ne avremo 8. Sono delle settimane dove i weekend si sovrappongono 2 o 3 workshop assieme, però abbiamo iniziato con Pavia settimana scorsa e secondo me ce la faremo, dobbiamo farcela. E le application sono veramente aperte a tutti, sono un mese prima, mi pare, dell'inizio del workshop. E è molto semplice anche fare application, basta mandare una 4 con qualcosa che secondo voi ci aiuta a far capire che vi può interessare a fare un progetto di autocostruzione, e una breve lettera motivazionale di 5 righe, quindi non è che chiediamo portfolio o cose così, vogliamo solo conoscere persone e non il loro percorso e tutto quello che magari non sono riuscite a fare, cioè è solo uno step in più. Ok, vabbè, questi sono un po' di contatti, se vi interessano, non so se c'è connessione internet, se faccio partire questo video. Okay. Questo è un piccolo video, secondo noi è uno dei, cioè questo video fa capire veramente tutti i punti principali del workshop, quindi lavorare nella natura con la comunità. Il tipico clima del Trentino che assomiglia molto a quello di Milano oggi. Il legno, comunque in questo caso stavamo facendo delle strutture di supporto a un orto urbano. Si va di sketch, di disegni vengono ascoltate, prese in considerazione le idee di tutte, poi selezionata ovviamente col supporto dei tutor l'idea più fattibile o la via di mezzo più fattibile. Abbiamo sperimentato anche cemento, tessuti e altri materiali. C'è resistenza. Lui è Claudio Mutz. E si lavora anche quando piove. I bambini sono sempre più bravi a usare le strutture di campo senza. Questa è una parte un po' più per gli amanti dell'architettura, quindi prospettive interessanti, allineamenti, cose varie, però spiegato. spero che abbiate capito più o meno che cosa facciamo e perché. Però effettivamente sono stati 9 anni schizofrenici, quindi ci sta raccontando così. Teniamo il video, poi passeremo alla legge. C'è anche un'altra presentazione. Passiamo a Exalce. Luca, cosa ne pensi? Raccontaci un po'. Exalge nasce, viene fondata, non abbiamo... Questa è la nostra presentazione, ci siete dentro ormai. Exalge appunto viene fondata a maggio 2020, pieno Covid, quindi abbiamo raggiunto i 2 anni passi di apertura ormai, e nasce come associazione di promozione sociale, questo sia legalmente come intenti, perché per come la vedo io questa questione di promozione sociale poi è molto importante, rappresenta anche quello che cerchiamo di fare. Gli scopi dell'associazione, gli scopi e le finalità sono tanti e cercherò di essere il più sintetico possibile. Quello che vogliamo fare è di riportare dell'orizzontalità in quasi tutti gli aspetti, se non tutti gli aspetti di quello che facciamo, anche probabilmente la tessera associativa e tutto quello che ne consegue comporta che chi viene qua non è un cliente ma un socio di Exalge. Noi siamo i primi a volere delle proposte da parte di soci, a cercare una collaborazione il più possibile sullo stesso piano con chiunque venga qui, cerchiamo di dare uno spazio a chiunque abbia un progetto e non trova spazio da altre parti. Delle tante cose che si pone Exalge, parlerei anche del superare tanti divari come quello tra città e campagna, provando a riportare comunque della natura all'interno della città, in questo caso il centro di Milano. Proviamo a farlo con le piante, con l'orto che abbiamo qui, cercando di lavorare nel pieno rispetto della natura che ci circonda. Detto questo, non braccio, scusate, mi viene solo un attimo. L'orizzontalità sta un po' dappertutto in quello, nell'associarsi, negli eventi, in tutto quello che facciamo, nei workshop, nei laboratori. Abbiamo un laboratorio di falegnameria, uno di giardinaggio, c'è stato un corso di uncinetto addirittura in un certo periodo. Cerchiamo di porci anche nel quartiere e di provare a portare, soprattutto in futuro, al di fuori di questo spazio, quelle che sono le nostre idee, quindi vorremmo prima o poi anche prendere in consegna terreni al di fuori di Exalge per poter coltivare, fare altri laboratori, altri workshop, per provare a portare quelle che sono le nostre idee al di fuori. Per il momento, questi 2 anni non sono stati facili, va detto, perché comunque un'apertura in pieno Covid, tra zone gialle, rosse, arancioni, chiusure, riaperture, limitazioni, non è stato semplice. Però comunque l'associazione è riuscita a raccogliere più di 4.000 soci in questi 2 anni, stiamo andando, perché chiaramente la sfida è rendere Exalge sostenibile da tutti i punti di vista, però almeno l'idea è quella di riuscirci e di provarci il più possibile. Per quanto riguarda poi i vari approfondimenti sulla falegnameria, farei parlare più Giovanni, che adesso è lì che finta di non vedermi, che è il maestro di questa cosa, che non verrà sicuramente. Io sulla falegnameria non so cosa dire. Giovanni non viene a sostegno. Mossa molto bassa, meschina, bassissima. No, quello che facciamo durante i laboratori, diciamo, nostri, più in particolare rispetto ad altri di altri soci che propongono. Nostri parlano del nucleo fondante con cui abbiamo pensato appunto soprattutto orto urbano e falegnameria, è di non avere un approccio da insegnanti, in quanto vorremmo che tutti si ponessero nello stesso modo, quindi la possibilità anche di chi non ha mai preso un coltello in mano nella falegnameria o una pialla di sperimentare, di dire la sua, di far capire anche agli altri come lui la usa meglio, e così come nella falegnameria per le piante, quindi chi si inventa anche un nuovo modo a partire da zero senza aver mai avuto preconcetti o insegnamenti e può dire questo ha funzionato per me, ha funzionato così e mi piace condividerlo. Così nasce un po' la nostra idea di orizzontalità anche. Quindi siamo aperti a tutti, a chiunque abbia background o meno in qualsiasi tipo di materia, e semplicemente abbia voglia di mettersi in gioco, imparare da solo con gli altri, seguendo consigli o meno, e così vanno un po' le attività qua. E così anche entriamo in contatto e veniamo a conoscenza con tante diverse realtà, come Magma, come Parallelo, come tutte quelle che vengono presentate in questi giorni. E così la radio che, su cui adesso noi siamo online, non è, di cui io sono uno dei tanti speaker, di notare la presenza, la tranquillità con cui espongo certe tematiche. E niente, non so se avete domande, qualsiasi tipo di domanda al volo. Niente. La tessera dice: Tessera ha detto, Alessandra propone di alzarla a 50 euro. Va benissimo, perfetto. Siamo contenti di queste proposte. 50, giusto. Giusto. 50, ci sono 8 soci fondatori che dovevano essere 9, ma uno non gli partiva la Vespa, e quindi siamo diventati 8, che è giusto uno in più del numero minimo per fondare una PS, e però c'eravamo in tanti col cuore, e saremmo stati diciamo, una quindicina lavorato prima dell'ufficiale apertura e fondazione, chi meno, chi con più costanza, chi con meno, e tuttora non siamo solo 5, 7, ma sono tutti, anche voi che state qui oggi, chi ci ascolta sulla radio, nessuno, ma avranno la possibilità tramite la registrazione di ascoltarci eventualmente, e anche loro saranno autori corresponsabili di queste cose. Esattamente. La radio, quando anche lui non spiega, quando qualcuno ha voglia di schiacciare rec e live, la radio va. Quindi potrebbe esserci il rumore della lavastoviglie, così come una talk, una presentation e via. O mettere dei dischi. C'era anche chi combinava i dischi con la lavastoviglie. È stato un bel programma, sì. Cedo. Volevo aggiungere una piccola parentesi, questa volta personale, su Exalge, perché degli 8 soci fondatori io non c'ero, non sono stato un socio fondatore, sono entrato... No, io sono arrivato tipo un annetto dopo l'apertura, quindi sarebbe stato un problema un po' grave per una Vespa, un anno. No, comunque, io sono arrivato come socio, mi sono tesserato poco più di un anno fa. Mi sono entrato in Exalge molto dopo la fondazione, molto dopo anche soltanto l'idea che Exalge nascesse. E dei tanti progetti che ci sono, faccio ancora parte di tutti. Come potete vedere, infatti non faccio lo speaker, non sono sciolto come Giovanni a parlare, però quello che la cosa penso importante che ho trovato qui, poi iniziando anche a passare dall'altra parte del banco e iniziando a partecipare a tante delle cose di Exalia che sono ancora tutte, è che l'orizzontalità poi alla fine sta proprio in questo, nel poter imparare, nel potersi inserire, nel potersi conoscere, creare un ambiente che non sia poi davvero un ambiente esclusivamente lavorativo, ma che si possa riunire la crescita, l'educazione, il lavoro e anche la vita personale in un posto che poi è un posto fisico, ma non solo, credo che questa sia una cosa molto importante e credo che sia davvero un'iniziativa meravigliosa che vale la pena conoscere. Francesca. Grazie. Io sono Francesca di Parallelo e il nostro nome è Parallelo Prodotti da Scappati di Casa, quindi forse già intuite qualcosa e direi che il nostro essere orizzontale inizia proprio da questo nome, perché il fatto... Invece io sono felicissima perché di solito non ci sono, se puoi andare tu ti dico vai. E vedete, Parallelo Prodotti a Scappati di Casa, dicevo, il nostro essere orizzontali parte dal nome, vi dico in breve, ma da questa foto forse si capisce già. Siamo un laboratorio sociale di artigiani creativi, nella tecnica siamo un'impresa sociale, una cooperativa sociale di tipo B. Siamo nati come cooperativa nel 2017 e prima siamo stati associazione per 2 anni. E quello che facciamo è innanzitutto riutilizzare uno spazio sequestrato alla mafia, quindi siamo verso Varese, a Castellanza, non so se qualcuno di voi conosce Legnano, comunque quelle zone, e siamo in uno spazio che il comune appunto ci ha affidato attraverso un bando perché era stato sequestrato alla mafia, e questa è la nostra prima valenza importante. E abbiamo questa eredità, no? Anche di raccontare un luogo e di restituirlo alla comunità. E poi l'altra cosa che facciamo è lavorare, sembra banale, ma in realtà stasera, dopo 6 anni, direi che quella è la nostra conquista più grande, il fatto di essere riusciti a trasformare quella che era un'idea bella, che ci piaceva per le nostre vite, in quello che facciamo full time. E lavoriamo, siamo tutti scappati di casa, io perché mia nonna mi chiamava così, mi diceva sei proprio una scappata di casa quando facevo qualcosa che era un po' fuori dal normale, no? E i miei amici che sono con me, che lavorano con me, che hanno il mio colore di pelle, hanno questo in comune con me, siamo tutti delle persone che hanno fatto degli studi universitari e poi però dopo l'università, insomma, ci siamo tutti un po' chiesti dopo i primi 2-3 anni di lavoro, troviamo un senso un pochino magari diverso a quello che stiamo facendo, trasformiamo, no, la nostra professione. E io ho studiato cooperazione sociale, i miei colleghi sono architetti, designer, comunicatori, marketer, c'è una ragazza che invece si occupa di gestione di impresa, quindi abbiamo proprio un mix di competenze che serve per fare quello che facciamo. E poi invece ci sono degli scappati di casa veri, e questa è la ragione per cui siamo partiti, coinvolgere richiedenti asilo rifugiati che erano sul nostro territorio a partire da direi il 2014, perché non essendo una città grande i primi centri di accoglienza nei nostri territori sono arrivati in quegli anni, ed erano dei centri lontani dalla città, fuori nelle aree industriali, delle case dove le persone passavano 1, 2, 3, 4 anni in attesa di poter avere l'udienza della commissione senza fare granché. E quindi la prima ragione per cui siamo nati, oltre a una scelta personale, è stata quella di voler offrire un'opportunità di incontro a persone che erano effettivamente scappati di casa perché rifugiati richiedenti asilo. Se vuoi andare avanti vi leggo un po' quello che dice qui, che è proprio il succo, il concentrato di quello che siamo. Prodotti da scappati di casa. Parallelo al laboratorio sociale di giovani artigiani e creativi, realizziamo prodotti utili e sostenibili, offriamo riparazioni, progetti su misura, servizi di comunicazione, corsi ed eventi. Facciamo prodotti perché abbiamo proprio una linea nostra che realizziamo con materiali di recupero. E i prodotti sono nati perché inizialmente facevamo formazione, cioè parlando con i gestori dei centri di accoglienza e soprattutto con gli ospiti abbiamo capito che quello che mancava nel 2016-2017 era in questa fase appunto di attesa del documento, avere un'opportunità formativa per recuperare le professioni che già prima loro avevano, e tanti dei nostri colleghi erano artigiani. Quindi l'idea di incontrarci, di mettere in campo la parte magari più progettuale con la parte più tecnica manuale nasce proprio da lì, no? Dalla voglia di rimettere in campo delle competenze che già ci sono da persone che hanno una storia, una vita come a noi, anche se ci siamo incontrati in quell'anno. E quindi abbiamo creato questi prodotti insieme che sono una sorta di programma didattico. Sono creati per difficoltà crescente, e questi prodotti sono un po' il modo in cui noi comunichiamo quello che siamo, hanno dentro la nostra essenza e vanno in giro per l'Italia. Li chiamiamo utili e sostenibili perché appunto lavoriamo solo con materiali di recupero e ci piace appunto mantenere l'utilità come punto fermo, no? Perché appunto prima dicevo vorremmo essere un po' pop, abbiamo già il tema del sociale, il tema del reuse, quindi sull'ideazione del prodotto andiamo su cose molto semplici perché dobbiamo arrivare ai più, c'è chi ci sceglie perché c'è un senso dietro, c'è chi ci sceglie perché c'è una sostenibilità dietro, non facciamo cose complesse che vanno anche spiegate. E poi abbiamo uno spazio di bottega, siamo in uno spazio in vetrina, abbiamo la fortuna di avere appunto uno spazio sequestrato alla mafia, ma che non è una mega villa o un campo, è un negozio, e quindi abbiamo uno spazio in vetrina che ci dà la possibilità, almeno nel 2017 ci ha dato la possibilità di dare uno schiaffo in faccia al comune leghista in cui ci trovavamo e dire toh, siamo qua, siamo delle persone di vari colori che lavorano, non facciamo nulla di strano, siamo qui, lavoriamo, non c'è nessun mistero dietro su cosa fanno queste persone e perché sono qui. E quindi facciamo proprio servizi di bottega. Come vi dicevo, lavoriamo per l'integrazione e l'autonomia di persone fragili e straniere, e abbiamo inserito fragili perché appunto abbiamo iniziato dalla formazione, ma poi nel 2019 con Salvini, decreti sicurezza, stravolgimenti vari, è venuto un po' meno la necessità di avere uno spazio formativo per i centri di accoglienza. Non vi sto a spiegare perché, ma sostanzialmente sono cambiati proprio nella loro forma, e quindi quello che ci hanno chiesto di fare per continuare a essere utili è di generare posti di lavoro e di fare tirocini, inserimento lavorativo. Per cui siamo passati da cooperativa A a cooperativa di tipo B, e la cooperativa di tipo B si rivolge alle persone fragili. I rifugiati richiedenti asilo non sono persone fragili, così come è riconosciuto dalla normativa, perché si tratta di una situazione temporanea. In realtà una fragilità c'è perché un supporto serve a livello linguistico, psicologico, ma nella nostra normativa non è assolutamente riconosciuta. Questi sono Ali, che è il nostro socio, collega, è con noi dall'inizio, e due ragazzi che hanno invece partecipato a un tirocinio, Paul e Celestin, stanno cucendo. I nostri laboratori sono questi, abbiamo la falegnameria, ceramica, ciclomeccanica, legatoria, sartoria, e poi abbiamo aggiunto la comunicazione perché ci occupiamo di comunicazione per altre imprese, sempre nel mondo del non profit. E sono tutti laboratori che sono nati proprio dalle nostre competenze e dalle competenze appunto delle prime persone rifugiate che abbiamo conosciuto e che oggi lavorano insieme a noi. Questi sono, adesso c'è una carrellata di prodotti e come vedete usiamo proprio quello che arriva, per cui per esempio avete visto una zona in stoffa, in pelle, abbiamo sul nostro territorio, era una zona molto dedicata al tessile, alla pelletteria, cioè tanto dell'industria della scarpa, e quindi ci recuperiamo proprio dalle aziende. Sul legno lavoriamo prevalentemente con bancali a seta ponte, sui tessuti appunto legatoria, sartoria, un mix di cose, facciamo delle stampe serigrafiche dove ci arrivano dei tessuti un po' noiosi. L'argilla è l'unico materiale che non recuperiamo, però si presta molto bene sia per la formazione che per i tirocini, perché finché non la cuoci si può rilavorare, quindi lo spreco è pochissimo. Sulle biciclette invece abbiamo bici di recupero che ci vengono donate da persone che stanno andando in discarica e prima si fermano da noi, e facciamo sia riparazioni a persone che arrivano, sia vendita di bici appunto che noi risistemiamo e che rimettiamo in circolo al prezzo della riparazione dei pezzi che abbiamo aggiunto. Facciamo poi anche corsi e servizi. I servizi sono la grande fetta, cioè i nostri prodotti sono molto belli perché appunto ci danno un'identità, ci permettono di avere qualcosa che continua sempre nel tempo, però in realtà poi il grosso del lavoro arriva dai servizi, servizi su misura, forniture per aziende, non facciamo cose tipo conto terzi, ok, però facciamo progetti molto belli. Adesso le aziende in questa fase stanno un po' riscoprendo, no, la responsabilità sociale, la responsabilità ambientale, e quindi ci cercano per fare dei progetti ad hoc. Per esempio l'ultima collaborazione bella è stata con Emergency, che ha quelle magliette iconiche che vediamo tutti, no? E ne ha tantissime in magazzino anche, striscioni, retropalco, e ci hanno proposto di darci appunto i loro scatti e progettarci sopra dei prodotti che poi vengono venduti nelle loro botteghe. Quello è proprio un esempio di wow, di progetto fichissimo, perché con il loro scarto facciamo, era il mio telefono, con il loro scarto facciamo dei prodotti per loro, e quindi per noi se lo sbatti solo divertimento. In realtà vendiamo online, vendiamo in negozio, e poi nel weekend ci dedichiamo anche ai corsi. A differenza di quello che avete raccontato voi, sono meno, essendo noi impresa abbiamo meno possibilità di fare cose tipo la classica ciclofficina, per esempio, che ci si immagina, no? Dove io arrivo e come in questo spazio magari sono tesserato, che quindi possono fare. Abbiamo un po' più di vincoli a livello assicurativo, eccetera, per cui sono proprio dei corsi un po' più strutturati, però cerchiamo sempre di regalare quella parte di manualità a chi magari non la può toccare con mano durante la vita di tutti i giorni, per cui tu vieni, fai il tuo corso, ti porti sempre a casa un prodotto che hai fatto tu con le tue mani. E per noi ormai che lo facciamo sembra una cosa banale, ma vediamo davvero persone che escono contentissime, o persone che si organizzano apposta per esserci, fanno gruppi, e per cui i corsi e i servizi di bottega sono sempre molto belli, perché ci permettono di interagire quotidianamente con il territorio. Ovviamente, essendo noi una cooperativa sociale, abbiamo anche tanto spazio per i volontari, tanti che vengono a dare una mano, e dare una mano vuol dire chiacchierare, perché poi di fatto i nostri colleghi e le persone che partecipano ai tirocini sono lì per imparare sì qualcosa di concreto, ma in realtà quello che facciamo è collaborare con i servizi sociali per offrire un primo approccio al mondo del lavoro per chi non l'ha ancora avuto in Italia, oppure un nuovo approccio al mondo del lavoro per chi magari è stato lontano per varie ragioni della vita dal lavoro per un po', e noi facciamo una sorta di bilancio di competenze, di reintroduzione, quindi serve una prima fase soft prima di magari andare altrove e spendere le proprie competenze in altro. Serve una fase soft di uno spazio che abbia un po' più attenzione alla persona, a quelle che sono le vulnerabilità e anche all'aspetto linguistico. E basta, credo. Esatto, qua vedete lo spazio, è piccolissimo, è super concentrato. E in realtà noi abbiamo un altro nome come cooperativa, speriamo di poter fare anche altri progetti. E un po' la mission che ci siamo dati quando siamo nati nel 2016 è accogliere, creare e condividere. Queste sono le tre cose che facciamo. Accogliere, appunto, perché come vi ho raccontato, il nome stesso ci permette di metterci tutti su uno stesso piano con chiunque entri. Tutti sono un po' scappati di casa, davvero, l'abbiamo capito negli anni. E a volte i più scappati di casa sono quelli più insospettabili. E creare, perché facciamo, questo è il centro di tutto quello che vi ho raccontato, fare con le mani, se entrate è un posto produttivo, laboratorio, e condividere. Condividiamo tanto storie, culture, religioni, lingue, condividiamo con gli anziani che passano e che vivono sopra di noi, perché siamo in un contesto residenziale, con i volontari, con le persone che partecipano ai corsi, quindi è bello, è un lavoro variegato. Prima riflettevo sul fatto che è difficile definire la nostra professione, ma sostanzialmente ognuno fa il suo pezzettino. E oggi siamo in 12 a lavorare a parallelo, di varie provenienze, e il bello della cooperativa sociale è che è proprio come l'associazione, cioè un'evoluzione naturale dell'associazione, per cui c'è un direttivo. In realtà noi, essendo così pochi, abbiamo scelto di non avere una differenza tra direttivo eletto e assemblea dei soci, ma tutti partecipiamo a tutti gli incontri, e c'è chi lavora lì e non è socio, chi è socio ma non lavora e fa il volontario, dipende un po' da quanto uno abbia la vocazione anche alla gestione dell'impresa e quanto invece uno voglia solo lavorarci dentro perché ha altre mille preoccupazioni. E c'è sempre la porta aperta, si dice, nelle cooperative, quindi chiunque si può associare se si avvicina a qualcosa che gli piace. È un po' più complesso rispetto all'associazione perché c'è una quota associativa più alta, c'è un impegno magari anche pochino più economicamente più importante, però diciamo che ci sono varie formule per permettere a tutti, soprattutto ai lavoratori, ma a tutti, di poter partecipare se vogliono. E noi siamo adesso 9 soci, di cui solo 7 lavoriamo lì, gli altri 3 hanno appunto iniziato come volontari e poi si sono appassionati, e niente, siamo tutti uguali, è un piccolo mondo felice nell'ambiente del lavoro, perché è un po' casa, un po' famiglia, un po' lavoro, un po' festa, un po' dopo lavoro, perché a volte ci fermiamo fino a orari improponibili, però è così, bello. Non so se avete domande, se mi sono spiegata. Sì. Siamo a Castellanza, che è dopo Legnano, in provincia di Varese, la prima città in provincia di Varese. Siamo online in realtà, quasi tutti ci conoscono perché abbiamo un e-commerce e anche le bici, così veniamo a Milano spesso. Castellanza, sono i pensionati. Ma allora, vi ringrazio. E, mi erano venute in mente un paio di domande, che però cerco di accorpare e fare un po' un momento finale, quindi magari ognuno può intervenire. Erano due domande, c'entravano una con le persone che passano e l'altra, diciamo, anche un po' con l'output, con cosa si produce. Per cui, cioè, la domanda si riassume così: che cosa è che rimane alla fine? Cioè, mi viene in mente, con Camposats c'è un po' questa vocazione di andare in tanti posti diversi, arrivare con una squadretta, un po' provocatoria, però arrivare con una squadra di persone, costruire e poi andarsene. Quindi cos'è che rimane? Per cui sia relegato all'oggetto architettonico, urbanistico che si sta costruendo, sia alla comunità di persone che poi interagisce, che siano, che rimangano lì perché vivono lì o che poi se ne vadano e partecipino magari a un altro workshop 2, 3, 4 anni dopo. Con Exalge anche c'è un po' cos'è che esce da qua, cos'è che esce, che ruolo ha questo nel quartiere, che cos'è che si fa, qual è il valore al di là delle mura dentro cui siamo, della mostra di cui parliamo, cioè cosa si fa, e anche con parallelo, cioè poi la gente arriva, lavora, poi prende la sua strada, acquisisce una professionalità, rimane lì, e anche voi umanamente come rielaborate poi, come finite poi quello che state facendo. Per cui, so, questa è un po' la domanda, e rimanete parallelo. Ci sono, perché sto vedendo i live, se magari è più facile farmi un esempio. Eli, che è quel foto, che è il nostro fotomodello, lui lavorava in banca, è dovuto scappare da casa, per cui con parallelo c'entrava poco niente, nel senso che, perché non interessava niente, rispetto, non era interessato al lavoro manuale, al design, alla creatività. Però è arrivato che non parlava assolutamente italiano, è venuto da noi per 6 mesi, ha fatto legatoria e ha parlato tutto il tempo, e a parallelo ha conosciuto sua moglie, quella che adesso è sua moglie. L'altra sera ci siamo visti a cena, 3 giorni fa, e adesso ha un lavoro, la patente, la macchina, è ripartito con la sua vita e boom, si è costruito un futuro. E quindi che cosa rimane di parallelo? Dipende molto da chi arriva e quanto vuole trarre e quanto anche lascia, no, alla nostra realtà. Devo dire che nella maggior parte dei casi siamo una piccola parentesi, ed è così che vogliamo essere, perché nel sociale poi impari in fretta che si lavora bene quando si lavora in rete e ognuno fa il suo pezzettino, quindi io non devo pensare di poter risolvere la vita di una persona che si deve ricostruire da zero. Semplicemente facciamo il nostro pezzettino, che è quello appunto di essere accoglienti, di esercitare la lingua e creare un ambiente positivo, piacevole, e di lasciare sì delle competenze. Però c'è chi magari non faceva un lavoro non relazionato e quindi la parte delle competenze è superflua. E tanti, quasi tutti quelli che sono passati da noi sono passati e sono andati altrove per continuare con la propria vita un pochino più rafforzati, ecco. E poi ci sono i casi belli in cui da tirocinante, corsista, volontario ti affezioni o incastri perfettamente con anche quello che è tutta l'azienda, no? E rimani, e lì invece è più una scelta di vita, e davvero diventa quasi totalizzante in senso buono. I prodotti invece, i servizi, sono un piccolo input che diamo, e la cosa penso più bella e vedere adesso dove sono arrivati no, i nostri prodotti e pensare su tutti i prodotti c'è la faccia di chi l'ha fatto. Pensare che adesso, vabbè, magari ne parliamo meno, però appunto ritornare nei tempi in cui l'accoglienza era un po' il tema principale, il pensiero che magari tu regali a un tuo amico che non sai neanche come la pensa, un prodotto fatto da una persona rifugiata sicuramente lascia un micro segno, no? Appunto di una piccola accoglienza in casa tua di qualcosa che rimane, così come il vecchietto leghista che veniva a farci riparare la bici, discussioni su discussioni politiche, poi però di fatto era con Buba che gli riparava la bici, adesso non so, gli portavo la Coca-Cola, la Fanta, Buba, perché che bravo Buba, quindi in tanti piccoli modi, secondo me, li incontriamo, cerchiamo di lasciare un segno, ma non perché ne siamo più bravi, belli e simpatici, ma semplicemente perché abbiamo trovato una cosa che ci piace nella vita e che guarda caso può avere un'utilità, e viceversa riceviamo quello che rimane a me. Ripeto, l'altro ieri ho visto l'AI, quello che mi è rimasto di l'AI è una relazione, una di amicizia, il fatto che lui mi dica mi ricordo quel giorno in cui sono arrivato nel centro, ti ho conosciuto e siamo diventati amici e tu mi hai portato a conoscere quella che adesso è mia moglie, cioè un incrocio di storie che riempie anche la tua, no? di esistenza, e quindi un po' questo. A livello ambientale spero rimanga poco, perché siamo a posto a materiale di scarpe, cerchiamo di essere il più sostenibili possibile anche nell'e-commerce e tutto, anche se non è facile, però ci proviamo a lasciare una poca impronta. Allora, no, la domanda poi che cosa resta, che cosa dovrebbe restare di Salvi una volta venuto da qui, io penso che la risposta sia la voglia e l'idea di poter vivere la città in un modo diverso da come viene vissuta adesso, sia a livello ambientale che di comportamento, anche soltanto per ispirare un'atmosfera di collaborazione più che di competizione, e sì, per poter rallentare e comunicare meglio con il resto del mondo che ci sta intorno, e più o meno penso che venendo in Exalge, conoscendo il posto e cercando di capire la realtà in cui si è, poi delle cose che si possono, qua ci sono delle cose che si possono prendere, nel senso degli insegnamenti come degli insegnamenti che si possono dare, e credo che sia molto importante che ci sia un rapporto di dare e prendere, e dare e prendere dallo spazio vuol dire magari anche prendere un'idea diversa su come potersi vivere la realtà che ci sta intorno, come poter dare invece tanto anche a uno spazio che vive poi dei suoi soci e di chi appunto lo vive. Quindi io credo che sia questo, cioè la grande collaborazione, il prendere e poter dare, penso che debba rimanere il... Penso che attraverso questo processo si possa restare nelle persone, come poi le persone possono restare qui. Il quartiere, allora, inizia piano piano a rispondere, perché ci sono tante persone di questa zona che abitano qui, che iniziano a notare il posto, a venire qui, anche soltanto a vedere lo spazio. Ci sono queste scene molto belle di persone che fanno tutto il corridoio, arrivano fino in fondo, si guardano intorno un po' spaesate e poi se ne vanno senza dire una parola. Molti invece poi si spingono anche dentro, ci chiedono cosa siamo, che cosa facciamo, parlano con noi, qualcuno si tessera, quindi il quartiere inizia ad accorgersi che ci siamo, a viverci, e noi cerchiamo per quanto possibile poi di attivarlo, anche senza poi fare grande pubblicità fisicamente, perché abbiamo cartelloni né altro, funziona tanto col passaparola e con comunicazione via social, via sito, via mail, e però cerchiamo un po' di attirare di qua anche un po' tutti i tipi di soci, volendo, perché poi i soci sono veramente di qualsiasi fascia d'età o anche ideologia, cioè ci sono davvero tante cose diverse qua dentro. Poi chiaramente l'associazione ha dei suoi ideali, dei suoi scopi, quindi ci deve essere un qualche tipo di condivisione. Però si cerca poi di accettare, si accetta chiunque entri, poi voglia associarsi, voglia far parte di questo progetto. Ovviamente ben accetto ed è il benvenuto. quello che appunto credo è che poi una volta il quartiere sta piano piano iniziando a notarci e in parte anche a viverci. Io stesso appunto, come vi dicevo, sono arrivato qua più di un anno dopo la fondazione e comunque abito qua in zona e io per primo sono l'esempio di come ci si possa accorgere che questo posto c'è e appunto poi lo si possa prendere tanto dalle cariche come dare appunto, come dicevo prima. Saranno le stesse, dici? No, volevo sapere se prima volevate dire qualcosa voi, però è un tema per noi, no? Correggetemi se sbaglio, ma sicuramente che tocca nel vivo un po' le stesse domande che noi ci siamo fatti dopo le prime esperienze, perché ovviamente, come raccontavo prima, siamo partiti con un entusiasmo, no? Una voglia di fare, di costruire, di realizzare delle cose fisiche, concrete e tangibili, senza in realtà ragionare sulle conseguenze o sul senso a monte di queste operazioni. Il senso è arrivato da solo in realtà, poi ci siamo fermati un attimo e l'abbiamo cercato un po' di mettere a fuoco. Il senso è nato nel momento in cui abbiamo capito che il nostro operare in realtà non si limitava, non si esauriva nella concretezza, diciamo, tangibile dell'opera che noi dovevamo costruire e lasciare lì nel luogo, ma in realtà noi, costruendo quella cosa che aveva in sé un valore, ma era un valore parziale, andavamo in realtà a piantare un seme, perché lavoravamo sempre in contesti in cui comunque c'era una sorta di partecipazione, no? Volontaria, involontaria, diretta, indiretta, della popolazione locale, di chi poi viveva questi luoghi. E lì in realtà si innesca il vero valore del nostro operato, nel momento in cui l'abbiamo capito, abbiamo capito che potenzialmente noi abbiamo questa capacità, no? Attraverso questa costruzione spontanea, questo operare concretamente, no? Che va oltre il banale, insomma, o il semplice dialogo, le semplici parole, no? È l'operare insieme, permetteva fondamentalmente di innescare tutta una serie di dinamiche sociali per cui era più facile comunicare con le persone, farle ragionare magari sulle potenzialità che uno spazio urbano o non urbano poteva avere nello sviluppo successivo. E quindi, come dicevo, no? Un piccolo seme che viene piantato da Camposaz poi può potenzialmente, ovviamente può germogliare, come no, nel senso dipende dai contesti in cui si opera, ma molto spesso è andato ad innescare delle dinamiche che poi nel tempo possono anche aver avuto una prosecuzione. Ovviamente noi col tempo poi abbiamo cercato di, visto che le richieste si sono un po' moltiplicate nel tempo, e c'è stata anche, come dire, il rovescio della medaglia, per cui il nostro operato, essendo gratuito, veniva richiesto anche da enti o anche enti pubblici che percepivano la possibilità di fare qualcosa a basso costo, no? Allora noi dopo un po' ci siamo cascati un paio di volte, poi siamo diventati un po' più furbi e abbiamo capito che forse dovevamo analizzare bene il contesto dove andavamo a operare. L'ideale è innanzitutto che l'ente che ti coinvolge capisca il senso di quello che tu stai facendo, che va oltre al valore materiale di quello che tu lasci, e poi soprattutto il contesto migliore è quello in cui già c'è un terreno fertile, ovvero un processo, per quanto piccolo, per quanto alla fase iniziale, di coinvolgimento, partecipazione della popolazione su determinate tematiche, magari svolto e coordinato da associazioni o enti che operano localmente, ci coinvolgono, noi arriviamo e facciamo praticamente scoppiare una bomba, perché costruendo, no, questa cosa che la gente vede, giovani che in un centro storico iniziano a tirare, no, assi di legno, seghe circolari, viti, eccetera, rende tutto molto più dinamico e rende più facile il coinvolgimento della popolazione. Poi è ovvio che per poter far crescere la pianta l'ideale è che lì sul luogo, quando noi ce ne siamo andati, quel qualcuno che ci ha invitati e ha avviato il processo rimanga per portarlo avanti. Questo è un po' il contesto ideale per fare in modo che il nostro operato possa lasciare qualcosa sul posto. Non so se volete aggiungere. Allora, non so se hai capito tutto che è stato detto, però sto. Sto pensando che quando hai cominciato con quello, in realtà non era cosa è stato lasciato, e cosa il luogo ha dato, e le gente che sono andato lì e dato via. Quello che hai detto? No? Sì, Ma in ogni caso, sì, poi, in ogni caso, il campo è stato cominciato, non posso che le gente vanno lì per imparare. Poi quando lasciano, infatti ieri sera siamo parlati della cosa che campo è stato fatto per noi, e per i partecipanti, e il fatto che possiamo lasciare, anche in realtà lasciamo un sacco di legno che è lì per la comunità, per vedere, sdraiare, guardare, passare. Quello non è la cosa più importante, cosa è campo SAS. In realtà è cominciato su quello, poi ovvio, come detto, abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo pensare. E uno dei progetti che forse se guardi alla scala di estetica e effetto sul comune, quello è quello di Genova, che non è molto bello, però abbiamo vinto un bando dove abbiamo, allora era una piazza che era chiusa e era tutto il comune intero, tutti i residenti, e la cosa più bella è che il fatto che alla fine c'era un WhatsApp e alla fine le gente hanno parlato, perché erano tutti anziani, c'era la donna rosa che si gridava a tutti, però in ogni caso non avevano ancora qualcuno a sgridare o a parlare, che per gli anziani quella cosa è più importante di tutto. E sì, allora alla fine è legno, però in realtà è una cosa che non puoi quantificare. Giusto una cosa velocissima, anche l'effetto domino di cui si parlava prima, cioè campo SAS risveglia spesso, non sempre, però all'interno dei partecipanti la volontà di dire: cavolo, io non posso solo lasciare le cose su carta, io le posso costruire, quindi magari i partecipanti tornano a casa, si costruiscono il mobile, e abbiamo tanti ex partecipanti, Davide e Mariella, che adesso sono costruttori professionisti, cioè loro sono falegnami professionisti, vanno in giro per il mondo, vengono chiamati ininterrottamente, non hanno tempo libero perché loro possono fare campo senza H24 365 giorni l'anno, beati loro, e noi lavoriamo tutti in ufficio. Però anche questo semino non è solo per la comunità, ma è anche penso sia un po' lo scopo di ogni associazione, di ogni ente che cerca di coinvolgere le persone e dire: io ti creo un'opportunità, poi libero tu di coglierla oppure no, dire dare 100, di dare 200, di trasformarla nella tua vita, e è fondamentalmente quello che secondo me abbiamo anche un po' tutti in comune. Quindi basta. Vi ringrazio, aggiungo solo una minuscola postilla che poi fa un gancio un po' con Magma, che è il collettivo che ha creato questa cosa. Io ho partecipato a un campo SAS, un workshop di campo SAS a Bussoleno a ottobre in Val di Susa, e l'ultimo giorno mi sono portato via in macchina degli scarti del legno, e uno di questi scarti del legno l'ho portato al primo evento di Magma, che faceva una raccolta di oggetti, ed è finito in uno degli oggetti esposti qua dentro. E niente, vi ringrazio e basta, bevetevi una birra. Grazie al consiglio. Qualcuno vuole dire qualcosa? Volete fare domande? Mi è piaciuto, mi è piaciuto che mi sia raccontato. Non lo so, non lo so. penso alla scuola professionale, se diceva appunto tutti quanti che hanno mezzo le relazioni, perché alla fine sono quelle che una cosa porta al cambiamento, che porta qualcosa, che lascia qualcosa differente, è una scala molto come lanciate, cioè come riuscite a raccontarvi, cioè nel senso una comunicazione effettiva, cioè voi siete riusciti a andare anche globalmente esterni in comunicazione, cioè penso che siamo in queste live in un sacco di paesi e cioè, sarà accadendo gente. Thank you.